metti Charlie ma non lo sai usare. Sick look, sick look. In strada stiamo fort, stiamo fort, ah. Ad avvocati stiamo fort, stiamo fort, ah. Ad orologi stiamo fort, stiamo fort, ah. Non mi fermo da millennio perché è sempre il mio momento, sei. Quest'estate sono single, ehi. Quest'estate sono single, ehi. Quest'estate sono single, sei. Quest'estate sono single, yeah. Single. Faccio un segno con la mano, loro sanno cosa fare. Vorrei che a scuola mi avessero insegnato a perdonare. Ho bruciato 1000 euro, non trovavo l'accendino. Fermo dove sono, odierei vederti al posto mio. Levo la vita a quel buffone, poi la vista al testimone. Impronte sulle banconote, ma non lascio mai le prove. Quella è già destinazione, passa la prima impressione. Se la scopo la rendo una donna che sa ciò che vuole. Oh, oh, un centrabronzante sulla mano. Non mi manca niente, ma ti tratto come un ladro. Hai provato a farci male, ma siamo rimasti illesi. Hai fatto un passo falso fra con quelle Nike cinesi. Perché strada stiamo fort, stiamo fort, ah. Ad avvocati stiamo fort, stiamo fort, ah. Ad orologi stiamo fort, stiamo fort, ah. Non mi fermo da millennio perché è sempre il mio momento, sei. Quest'estate sono single, ehi. Quest'estate sono single, ehi. Quest'estate sono single, sei. Quest'estate sono single. Quest'estate sono single, pure tu, quindi vieni e te lo spingo. A fine mese sempre bingo. Bello quel lublo, mi spiace che sia finto. Se lei vuole la mia wave in faccia, noi a letto tu da fuori senti solo ciaf ciaf. Passo al parco adesso metto un parca. Mi ricordo ancora i giorni su una panca. Ora siamo forti quando entriamo in banca. Seduto su un jet, penso ce l'ho fatta. Se parli di me, sciacquati la bocca. Puoi farmi le seghe e spaccarti le braccia. Perché strada stiamo fort, stiamo fort, ah. Ad avvocati stiamo fort, stiamo fort, ah. Ad orologi stiamo fort, stiamo fort, ah. Non mi fermo da millennio perché è sempre il mio momento, sei. Quest'estate sono single, ehi. Quest'estate sono single, ehi. Quest'estate sono single, sei. Quest'estate sono single.